2024 di Enrico Pagliarini. Questo è il suono di 2024, il suono della tecnologia. Benvenuti o bentornati a 2024. Ci trovate su Twitter, Facebook oppure sul nostro sito internet www.radio24.it. Come sempre vi consiglio di abbonarvi, è un abbonamento gratuito. Vi consiglio di sottoscrivere il podcast di 2024. In questo modo avete la possibilità di scaricare anche automaticamente, senza che ve ne accorgiate, il file audio della nostra trasmissione settimana dopo settimana. Dunque andiamo in onda il venerdì sera tra le 22 e le 23, anche domenica nel nostro appuntamento breve tra le 13 e le 13.30. Questa sera parleremo, a proposito di podcast, anche di radio e del futuro della radio, e sicuramente i podcast sono una delle modalità con cui si ascolterà la radio nel futuro. Già oggi molti dei nostri ascoltatori ascoltano i programmi di Radio 24, 2024 in modo particolare, prevalentemente attraverso podcast. Anzi, li salutiamo, ci sono quelli che lo fanno mentre vanno al lavoro, in treno, in automobile, c'è chi fa sport, sono moltissimi quelli che fanno sport con le orecchie impegnate da 2024. Speriamo che sia un piacevole ascolto settimana dopo settimana. Dunque, a proposito delle settimane che passano, qui passano le settimane e non c'è ancora nessuna novità sul piano banda ultra larga del governo. Sapete che il governo ha approvato una serie di buone, di ottime intenzioni in questo piano strategico per la banda ultra larga in Italia, ma poi questa strategia deve essere concretizzata con degli atti formali, che si chiamino decreto o si chiamino in altro modo, a noi importa poco. Importano i contenuti e siamo qui in attesa, in trepidante attesa, un po' come i bambini aspettano i regali, perché lì dentro ci dovrebbero essere un sacco di buone notizie per la internet italiana. Allora, parallelamente a questo, quindi parallelamente a tutto quello che il governo, Palazzo Chigi, i vari ministeri coinvolti stanno preparando per concretizzare questo piano, c'è tutta una partita industriale che vede al centro Metroweb. Allora, partiamo da una notizia di questa settimana, di pochi giorni fa. Vodafone ha firmato una lettera di intenti con Metroweb. Prima di spiegarvi che cosa c'è dentro questa lettera, diciamo che cos'è Metroweb, che è la società milanese della fibra ottica controllata da F2I, Fondo per le Infrastrutture, e anche il Fondo Strategico Italiano, vale a dire Cassa Depositi e Prestiti. Opera a Milano, Genova, nei prossimi mesi anche a Torino e Bologna, portando fibra, anzi in alcune parti di queste città sono già partiti i piani di cablatura, porta fibra ottica direttamente nelle abitazioni e negli uffici. Ha un modello che piace molto al mercato perché è neutrale, fa l'operatore di rete, questo è il suo mestiere, lasciando i clienti finali alle società di telecomunicazioni. Quindi fa la rete come dovrebbero essere tutte le reti, indipendenti. Poi ce ne sono alcune che sono più indipendenti di altre, dipende da quali prendiamo in considerazione. Insomma, ad esempio, uno dei modelli che vengono presi spesso ad esempio, e non solo in Italia, è quello di Terna, della rete elettrica. Comunque il governo e la Cassa Depositi e Prestiti, che ha una rilevante posizione di controllo in Metroweb, vorrebbero, diciamo, è un'intenzione che traspare, che questa società diventasse protagonista dello sviluppo della rete internet italiana, sfruttando i finanziamenti e le agevolazioni messe a disposizione del piano banda ultra larga. Naturalmente tutti gli operatori possono partecipare, però se uno si attrezza in modo preciso magari ha qualche chance in più. Allora, per fare questo sarebbe opportuno, tutti dicono, ma insomma è il buon senso che lo consiglia, trovare un accordo con Telecom Italia, vista la posizione dominante sulla rete in rame. Ma Telecom ha più volte espresso il desiderio, i manager di Telecom hanno detto no, vogliamo la maggioranza di questa, di una nuova eventuale società, perché poi da Metro dovrebbe crescere una nuova società per fare una cablatura al di là delle città dove già opera Metroweb. Quindi Telecom dice no, noi vogliamo una maggioranza di questa società perché siamo abituati a controllare la rete. Finora però non si è trovato alcun accordo, perché governo e Cassa Depositi e Prestiti, mi sembra che questo sia un messaggio piuttosto chiaro, e penso che anche Telecom lo abbia capito, però vogliono garantire per il futuro una cosiddetta, dicono gli esperti, equivalence of input, cioè una condizione di input sulla rete uguale per tutti, tale per cui tutti gli operatori siano messi in condizioni uguali di fronte a questa rete, un po' come succede nelle altre reti, no? A questo punto la lettera di intenti, e quindi torniamo a questa lettera di intenti firmata da Vodafone e Metroweb, è una sorta, interpreto io, una sorta di segnale a Telecom. Secondo questo memorandum, la guida della società deve essere affidata ad un soggetto direttamente o indirettamente controllato dallo Stato, che fa un po' il garante neutrale, che non ci sia un operatore che abbia la maggioranza e che siano previste delle condizioni di governance eque e non discriminatorie. Insomma, messaggio piuttosto chiaro, vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane. Parlo di settimane perché questo dossier si dovrebbe concludere appunto a breve. Allora, parallelamente a questa faccenda che è prevalentemente industriale, e diciamo che l'orizzonte potrebbe essere un orizzonte auspicabile, poi vediamo quello che succederà, un orizzonte auspicabile che tutti i principali operatori, sarebbe meglio più dei principali operatori, anche magari qualche piccolo medio operatore, partecipino a questa nuova società e lo Stato, ma più che lo Stato, la Cassa Depositi e Prestiti, che va detto insomma non è lo Stato, certo lo Stato garantisce i prestiti di Cassa Depositi e Prestiti, però ricordiamo che lì ci sono i risparmi di milioni di italiani che farebbero un investimento a prova di futuro, perché chiaramente investire nella rete, visto che tutti quelli che sono collegati alla rete pagano un canone per transitare, è un ottimo investimento per il futuro, quindi il meccanismo sarebbe perfetto. Vedremo quello che succederà. Come sempre iniziamo da alcune notizie in breve, le abbiamo selezionato come sempre ogni settimana le notizie più importanti nelle nostre Digital News. Digital News. Iniziamo da una notizia che riguarda i pagamenti digitali, e in una delle prossime puntate molto presto parleremo di pagamenti digitali. Questo è un settore dove ci sono sempre nuove notizie, però mica possiamo parlarne ogni settimana. Allora, Facebook attiverà a breve negli Stati Uniti, per il momento solo negli Stati Uniti, un servizio di pagamento fra gli utenti del social network, che più che pagamento è un servizio di trasferimento denaro tramite Facebook Messenger, quindi di fatto con un messaggio si trasferiscono soldi. Esistono già delle applicazioni anche nel nostro paese, anche in Italia, che permettono di fare questo. Basta avere un conto corrente, un IBAN sottostante, e in modo gratuito io posso passare i soldi dal mio smartphone, di fatto, che è collegato all'IBAN, a quello di un mio amico, mio collega, eccetera eccetera, un'altra persona. Però capite bene che se lo fa Facebook, con i milioni di persone che sono già collegate all'interno del Messenger, basta poi aggiungere una carta di debito o di credito, dipende come sarà fatto il sistema, e automaticamente milioni di persone sono abilitate a trasferire denaro da un punto all'altro. Digital News. Allora, manca ancora una data precisa, ma Microsoft ha annunciato questa settimana che Windows 10 verrà lanciato questa estate. C'era ancora qualche dubbio, invece è arrivata la notizia, in 190 paesi e in 111 lingue, quindi lancio globale, e sicuramente, come dicono gli americani, verrà fatto per il back to school, quindi prima che si vada a scuola, magari agosto, settembre, giù di lì. Allora, l'aggiornamento, lo ricordiamo, sarà gratuito per chi ha Windows 7, Windows 8.1 e anche Windows Phone 8.1, e notizia di questa settimana anche per chi ha una copia pirata, potrà fare un aggiornamento gratuito a Windows 10. Digital News. Nel settore degli smartwatch continuano ad arrivare nuovi player, ma quindi tutti credono che sia un mercato, che ci sarà il mercato. Ora, la svizzera Tag Heuer ha annunciato una collaborazione con Google e Intel per lanciare uno smartwatch nei prossimi mesi. Anche Gucci lancerà presto un proprio orologio smart realizzato da Will.i.am, che è basato questo orologio digitale sarà basato su Will.i.am Plus, anzi scusate, Will.i.am Pulse, che è uno smartwatch per ora venduto solo su invito, che è creato da Will.i.am, dal cantante Will.i.am, dal produttore Will.i.am. Comunque, a parte alcune immagini, non ci sono ancora dettagli tecnici su questo smartwatch di Gucci. Si sa solo che avrà il GPS e una connessione 3G integrata, quindi non ci vorrà uno smartphone per usarlo, cosa invece obbligatoria per tutta una serie di smartwatch, non ultimo quello della Apple. Digital News. Altri annunci di nuovi smartwatch sono arrivati da Baselworld, la più importante fiera al mondo dedicata al mondo degli orologi, e direi che quasi tutte le notizie riguardano smartwatch. Quindi, dopo aver visto i produttori di smartphone e di elettronica per il fitness entrare in questo nuovo mercato, in questo nuovo ambiente, diciamo, non c'è ancora il mercato di fatto, ora ci provano anche alcuni produttori di orologi tradizionali. In bocca al lupo. Digital News. Deezer, che è uno dei più importanti servizi di musica in streaming, ha aperto a tutti il nuovo servizio Elite, che offre musica in qualità compact disc. Si tratta di formato FLAC, che è un formato compresso senza perdita, grande qualità. Il servizio costa per ora 14 o 15 euro, di fatto 14,99 al mese, ma è disponibile solo per i diffusori Sonos, che hanno l'esclusiva per questo servizio. Volete ascoltare meglio rispetto allo streaming normale? Beh, dovete comprarvi, almeno per Deezer, i Sonos. Digital News. Adesso parliamo di droni. Notizia italiana, l'ENAC ha pubblicato il nuovo regolamento relativo ai droni, che sarà in vigore dal 20 aprile. Secondo gli esperti del settore, le nuove norme vanno incontro alle richieste degli operatori, con una maggiore semplificazione per chi lavora con i droni. Certo, tutto è migliorabile, però ho raccolto pareri positivi su questo regolamento. In Italia, pensate, ci sono già 5.000 operatori di droni, quindi ci sono sicuramente... Non è detto che siano 5.000 i droni, potrebbero essere di più come di meno, però insomma gli operatori sono 5.000, quindi è sicuramente già un settore in fibrillazione, e sono rappresentati, e qui si vede l'italianità anche nel mondo dei droni, da 4 associazioni di settore. E uno si chiede, ma perché 4 associazioni di settore per i droni, che più o meno avranno gli stessi problemi, no? E vabbè, comunque. Fra poco ne avremo 10 associazioni. Comunque hanno fatto un incontro queste associazioni tutte assieme, quindi è già una buona cosa, magari se si fondono in una risolviamo molti problemi. Digital News. A proposito di droni, pochi giorni fa l'agenzia americana che regola il settore aereo ha rilasciato ad Amazon l'autorizzazione ad avviare test di consegna pacchi con i droni. E qui c'è molto più marketing che in realtà, però è sicuramente sono sicuramente prove interessanti, perché una delle funzioni dei droni nei prossimi anni sarà quella per la consegna di pacchi, e ad esempio anche nel settore medico, dove l'urgenza, e quindi con un drone automatico si possono risolvere molti problemi, ma passeranno parecchi anni, perché poi bisogna cambiare anche i regolamenti, bisogna essere certi che tutto funzioni al meglio senza danni. La prossima settimana, mercoledì 25 marzo, la Commissione europea discuterà di Digital Single Market, mercato unico digitale in Europa. L'Italia ha scritto un messaggio, come si dice in gergo, un position paper, che rappresenta la posizione dell'Italia, in cui il sottosegretario alle comunicazioni Antonello Giacomelli scrive che i servizi digitali devono diventare tendenzialmente fruibili in tutti i paesi europei e su tutte le piattaforme. Una buona cosa. Tutta l'Europa dovrebbe diventare, secondo l'Italia, un ecosistema che favorisce l'innovazione e non la ostacola. Tocca alla responsabilità dei governi stabilire se l'Europa deve essere soggetto e protagonista del futuro o semplice territorio di conquista da parte di altri, cioè come sta avvenendo adesso, perché ormai, visto che buona parte delle cose dipendono dal software, gli americani dettano le regole. Tutto dipende dal software. Gli americani hanno detto: qua bisogna fare software, l'hardware lo fanno altri, ma l'hardware non serve più a niente. E quindi se guardate ad esempio i sistemi operativi, capite bene dove stiamo andando. Quindi la posizione dell'Italia è condivisibilissima, e tra l'altro è condivisibile anche il fatto che si debbano poter utilizzare i contenuti digitali in qualsiasi parte dell'Europa. Invece ancora oggi ci sono dei confini, pensate ai contenuti, soprattutto in quelli video, che sono un po' anacronistici. Molto interessante, una ricerca realizzata da Tannico, che è un sito di e-commerce specializzato in vino. Ne parliamo anche perché in questi giorni inizia Vinitaly, dove tra l'altro noi di Radio 24 saremo protagonisti con alcune trasmissioni in diretta, o comunque live a Vinitaly. Allora, secondo questa ricerca, l'Italia, che è il secondo produttore al mondo di vino con 44,4 milioni di ettolitri prodotti, e a volte diventiamo anche i primi contro i francesi, sempre un testa a testa, abbiamo un giro d'affari di 14,6 miliardi di euro. Allora, siamo secondi, a volte primi, ma agli ultimi posti nella vendita di vino online. Siamo mica tanto furbi, no? Solo lo 0,2% del vino viene venduto online rispetto a percentuali maggiori messe a segno dai principali paesi produttori e o consumatori di vino. Allora, pensate che la Cina, anche se la Cina è tutto un mondo strano e a parte, però è al primo posto con la penetrazione del canale online più alta, pari al 27%. Quindi 27% del vino in Cina viene venduto online, poi spieghiamo anche i motivi. Gran Bretagna, qui abbiamo un competitor più col quale ci possiamo confrontare, è al 6,8%. Devo dire che in Gran Bretagna l'e-commerce è molto spiccato, molto elevato, quindi anche questo dato risente del più generale consenso verso l'online nel commercio. La Francia, 5,8%, noi siamo lo 0,2%, 5,8%, seguita da Germania 2,3%, Spagna 1,9%. Secondo quanto scrive Tannico, che ha fatto questa ricerca, il grande successo dell'e-commerce in Cina è legato al fatto che l'online è il mezzo più efficace in un paese con delle distanze incredibili, ma soprattutto in un settore che è sostanzialmente nuovo e privo di canali di vendita radicati nel territorio. Non ci sono le enoteche. Io anche ultimamente ho portato una buona bottiglia di vino a casa di amici, invitato a cena, sono andato in una ottima enoteca dove un commesso mi ha servito al meglio, mi ha consigliato e sono rimasto molto soddisfatto. E quindi capite che chiaramente questo è un po' un vincolo. Infatti, scrive questa ricerca, la situazione in Italia è esattamente opposta, il vino è parte integrante della cultura popolare, la capillarità dei produttori sono distribuiti sul territorio, ha fatto sì che la domanda si indirizzasse principalmente sul canale fisico, quindi ci sono, oltre che i produttori, anche le enoteche con delle brave persone che ti vendono il vino. Però le opportunità dell'e-commerce, lo sappiamo, sono incredibili, e in questo caso mi sento di dire, ma lo dicono anche gli esperti, le opportunità sono molto interessanti in ottica di export, ma anche in ottica di commercio interno, diciamo di export tra regione e regione. Io sono andato in questa enoteca a Roma, mi hanno venduto un ottimo vino del Lazio, però a Milano faccio fatica a trovarlo. Quindi se ci fosse un... ci sono i siti internet, e quindi poi io andrò ad acquistare magari quel vino particolare, però sicuramente quel canale, il canale online, deve essere presidiato e studiato per creare nuove offerte e nuove opportunità. Dunque, a questo punto cambiamo completamente argomento, parliamo di radio, del futuro della radio. Questa settimana ho incontrato Ellen Boden, una splendida donna britannica che è la direttrice della radio della BBC. Ellen Boden ha fatto una presentazione domenica scorsa all'interno di Radio City, che è stata una manifestazione che ha riunito quasi tutte le grandi radio italiane a Milano, in occasione tra l'altro di Radio Days Europe, con una manifestazione che raduna in alcune sedi in tutta Europa le radio europee. Quindi c'è stata la tappa a Milano di Radio Days Europe, prima di questa manifestazione c'è stato questo raduno delle radio italiane, e all'interno c'è stato Meet the Media Guru, una manifestazione, un evento che si tiene spesso a Milano, dove vengono invitati dei personaggi esperti del mondo digitale, della comunicazione dei prossimi anni, del futuro della comunicazione. In questo caso a Meet the Media Guru c'era Ellen Boden, con la quale abbiamo fatto due chiacchiere sul futuro della radio. Non puoi sconfiggere la rivoluzione digitale, devi adattarti e superarla, ed è il motivo per cui mettiamo molta enfasi nell'ascoltare, nel vedere. Listen on watch, we're creating little films for YouTube and our own video channel for young people. Stiamo infatti creando brevi film per YouTube e per il nostro canale video dedicato ai giovani. And of course sharing. Naturalmente c'è la condivisione. I social media sono molto importanti per i giovani e in definitiva per ogni tipo di ascoltatore. We're also putting a lot of emphasis on great on-air talent. Mettiamo anche molta attenzione ai talenti che mandiamo in onda, eccellenti presentatori che conoscano e capiscano la musica e che possano costruire una relazione con gli ascoltatori. E poi una scelta originale e bellissima di musica classica e di contenuti parlati. And we're confident, we're bullish. E siamo sicuri, siamo ottimisti. Sappiamo che dobbiamo investire denaro in nuovi modi per portare contenuti alle persone. Apps for mobiles, apps for tablets, digital radios. All sorts of ways. Quindi app per smartphone, app per tablet, la radio digitale, ogni tipo di modalità, ma bisogna anche avere ottimi contenuti perché il cuore della buona radio è una buona relazione tra gli ascoltatori e le persone che parlano o scelgono per loro buona musica. Between the listener and the person talking and playing music for them. E uno a questo punto potrebbe dire e pensare, ma questa che stiamo descrivendo non è più la radio. Radio as I grew up with it, which was a box in the corner with just sound coming out, doesn't work for the young. La radio con cui sono cresciuta, che era una scatola nell'angolo da dove veniva fuori solo suono, non funziona più per le nuove generazioni. I do speeches in schools for 14 and 15 year olds and they don't understand that idea of radio. Vede, io vado a parlare nelle scuole a ragazzi che hanno 14 o 15 anni e loro non capiscono quell'idea di radio. Capiscono l'audio e lo ascoltano. Ascoltano canali radiofonici. But they also expect their radio stations to have little films, to have social media, and they are the listeners of the future. Ma si aspettano anche che le stazioni radio abbiano dei contenuti video e che siano sui social media e loro sono gli ascoltatori del futuro. For someone like me, radio will always be a box in the corner of the room. Per alcuni come me, la radio sarà sempre quella scatola nell'angolo della stanza, ma io sono della vecchia generazione, quindi dobbiamo adattarci per ogni generazione. But I'm the older end, so we have to adapt for each generation. E quindi quelli che pensavano che internet non invadesse anche il campo d'azione della radio, beh, si stavano e si stanno e si sbaglieranno. I principali canali di sviluppo saranno sì la radio digitale terrestre, quindi il DAB o come viene definita oggi la digital radio, che è un'evoluzione dell'FM e prima o poi anche l'FM scomparirà. Ci sono alcuni paesi europei che hanno già deciso lo spegnimento dell'FM. Ricordiamo che oggi in Italia la radio digitale copre già il 65% della popolazione. Ovviamente bisognerà investire di più nei prossimi anni, soprattutto in termini di contenuti aggiuntivi che si possono irradiare nei canali della radio digitale, DAB, del digital, della digital radio. Io ricordo sempre ai nostri ascoltatori, la prossima automobile che acquistate, acquistatela con la digital radio, che dà il massimo di sé se si viaggia, perché le interferenze vengono completamente annullate, quindi si ha un piacere nell'ascolto quando si viaggia soprattutto. Ma oltre a questo c'è internet, sempre più contenuti on demand, quindi come i podcast, cioè la radio quando la vogliamo. Ovvio che internet per la radio è anche una piccola grande minaccia, dipenderà. Oltre che naturalmente una grande opportunità, la barriera di ingresso, lo sappiamo, è molto bassa perché il numero delle persone che possono creare contenuti di qualità è sicuramente più elevato di quelle che oggi lavorano nelle stazioni radiofoniche. Ci sono già degli esempi di podcast fatti sostanzialmente in casa che sono ottimi prodotti. Ci sarà una inevitabile frammentazione del mercato, un'offerta maggiore per i consumatori, ma vedremo se a tutto ciò si accompagnerà anche arriveranno modelli di business che siano in grado di creare nuovi ricavi per gli editori o per i singoli talent, chiamiamoli così. Non tutti sono giornalisti, non tutti sono disc jockey, i talent che fanno podcast, che faranno la radio del futuro, perché non bisogna dimenticare i contenuti di qualità esistono se sono pagati. Beh, penso che il cambiamento oggi ancora, il grande business della radio anche soprattutto in Italia viene fatto ancora nel canale tradizionale, come diceva Ellen Bowden, con la radio che è in un angolo dal quale arriva fuori il suono, ma il cambiamento si percepirà in modo netto quando la diffusione delle automobili con connettività ad internet a bordo diventerà percepibile, quando comincerà ad essere normale avere un sistema di intrattenimento di bordo con le applicazioni, magari quelle che abbiamo sullo smartphone, che vengono replicate sul sistema di infotainment dell'auto. Avremo la possibilità di scegliere i contenuti che desideriamo quando vogliamo, e considerate che oggi tra il 60 e il 70% dell'ascolto viene fatto in automobile, quindi se il mondo dell'automobile cambia nettamente, beh, cominceremo a vedere una evoluzione del mezzo radiofonico. E chissà se la chiameremo più radio nei prossimi anni, sarà internet, semplicemente internet. Ho qualche dubbio che sia necessario fare del video per invadere campi dove forse chi fa la radio non è esperto, però nessuno ha certezze su quello che succederà nel futuro, ancora nessuno ha trovato un modello di business nel mondo dei quotidiani, dove la rivoluzione digitale è arrivata da molto più tempo, figuriamoci se lo si è trovato nel mondo della radio. Tra poco cambiamo argomento. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini e potete scrivermi a 2024@radio24.it. Adesso parliamo di banda larga, prima però volevo darvi una notizia che è interessante. YouTube ha cominciato a pubblicare video girati a 360 gradi, si possono vedere sia da PC con Chrome, ma la cosa migliore è utilizzare uno smartphone, l'app di YouTube per Android, dove la resa è particolarmente efficace perché si sfrutta il giroscopio dello smartphone, quindi si gira proprio lo smartphone e si cambia il punto di vista di questi video 360 gradi. Ma la morte di questi video è la realtà virtuale, quindi ci si sta preparando per la realtà virtuale, perché poi con un visore avere un video di questo genere, uno gira la testa e il video, l'immagine gira di conseguenza. Ne riparleremo, è sicuramente molto interessante. In questa puntata parliamo di banda larga con tutta una serie di indicazioni e considerazioni. Simone Zanardi, bentornato. Ciao Enrico, un saluto agli ascoltatori. Allora Simone, in questa puntata noi vorremmo fare un po' il punto della situazione attuale, cercando di capire quali sono le offerte in banda larga in termini tecnologici più che commerciali, e cercando anche di capire che cosa succederà, cosa sta già succedendo nella evoluzione della banda larga in Italia e che cosa succederà nei prossimi mesi. Sappiamo benissimo che ci sono molti italiani, una buona parte dell'Italia, che ha ancora dei problemi di connettività, e di questo noi parliamo spesso 2024, ma questa sera vorremmo cercare di rispondere a molte domande che ci sono arrivate, perché di fronte alle nuove tecnologie, alle nuove offerte, alcuni nostri ascoltatori ci hanno fatto molte domande che cercheremo di rispondere, alle quali cercheremo di rispondere in questa puntata. Allora Simone, che cosa sta succedendo? Stiamo vivendo un passaggio evolutivo nelle connessioni che ci portano appunto la banda larga, cioè internet, a casa e negli uffici chiaramente. Storicamente in Italia banda larga ha significato ADSL nella seconda parte degli anni 90 e negli anni 2000. Sì, tra l'altro ricordiamo che la prima offerta commerciale di ADSL in Italia è arrivata nel gennaio del 2000, quindi esatto. Festeggiamo quest'anno 15 anni di ADSL. Esattamente, che è una tecnologia che si basa sul doppino telefonico, cioè internet arriva sullo stesso canale fisico che trasportava il telefono. Per una serie di motivi storici la rete telefonica italiana era molto capillare, quindi è stata la tecnologia un po' d'elezione. È la tecnologia che ha portato la banda larga nelle nostre case dopo le primissime connessioni basate sul telefono analogico, diciamo. Sì. Oggi stiamo vivendo un passaggio ulteriore. La fibra ottica non è una tecnologia nuova, sono già parecchi anni che è disponibile. Sicuramente l'arrivo di nuove applicazioni, di nuove esigenze a livello di banda, la convergenza di tanti servizi su internet ha portato a una richiesta di banda superiore, di velocità superiore per collegarci a internet, e quindi la fibra ottica e altre tecnologie. Diciamo che oggi per collegarci a internet abbiamo a disposizione a livello di cavo, quindi connessioni cablate, o il rame, quindi appunto il doppino telefonico, o la fibra ottica e delle tecnologie ibride che poi vedremo. Sì, vedremo poi dove arriva questa fibra ottica. Ne abbiamo parlato in varie puntate di 2024, ma oggi non faremo un discorso politico-strategico, facciamo un discorso molto tecnologico. Allora, giusto per capire, con la DSL fino a che velocità arriviamo? Con la DSL e successive evoluzioni, diciamo DSL 2, 2 Plus, abbiamo una velocità massima in downlink di circa 20 megabit al secondo. Detta anche download. Esatto, anche se non è proprio tecnicamente la stessa però, cosa. Però voi ingegneri siete precisi. Sì, sì, sì. Io traduco. Comunque, il downlink essenzialmente è il senso di trasmissione dalla rete verso casa nostra. Quando dobbiamo scaricare anche una pagina web. Perfetto. Quello è il download, downlink. E qua entra in gioco la A dell'acronimo ADSL, che significa asimmetrico. Quindi se noi scarichiamo da internet 20 megabit al secondo, la velocità con cui invece possiamo caricare i dati verso internet è diversa ed è sensibilmente inferiore, tipicamente un megabit in linea teorica si può arrivare a 3 megabit, raramente lo si fa. Quindi diciamo 20 megabit in download, 1 megabit come riferimento di massima in upload. Poi vedremo perché è importante capire questa differenza. Molto importante, molto importante. Qui stiamo parlando di velocità tecnologicamente possibili, non stiamo facendo un discorso sul territorio, perché poi le cose cambiano da zona a zona e ci saranno sicuramente gli ascoltatori che dicono magari potessi raggiungere quelle velocità, o ci sono anche ascoltatori che dicono no, io ho già delle tecnologie superiori e quelle velocità le ho già superate. L'evoluzione più vicina alla ADSL 2 Plus? Esatto, lo step successivo, stando in ambito diciamo via cavo, è la tecnologia che si chiama tecnicamente FTTC, che è un ibrido di fibra ottica e rete su rame, quindi doppino. Cosa succede? Il rame c'ha un problema: più tratta deve percorrere il filo di rame, più le prestazioni degradano, a prescindere dal tipo di codifica che si utilizza per trasmettere i dati. In generale così. Esatto. Quindi cosa fanno gli operatori? Avvicinano la rete a casa nostra in modo che il rame debba compiere un tratto inferiore, e arrivano fino a questo punto con la fibra ottica. Quindi ai famosi armadi esatto, di strada ci si arriva con la fibra ottica, che tipicamente arriva invece nelle centrali telefoniche, che coprono aree anche di chilometri. Esattamente, invece con l'FTTC, come si dice, quindi fiber, cioè fibra to the cabinet, fino all'armadio, la fibra ottica, che è molto più performante, arriva fino al cabinet dell'operatore, che tipicamente in Italia può essere distante mezzo chilometro, un chilometro dall'abitazione, e l'ultimo tratto, che però è molto più breve, viene effettuato col rame. In questo modo la velocità, le prestazioni del rame aumentano e le velocità di conseguenza. Quindi il famoso ultimo miglio, con questa tecnologia che sta diffondendosi, gli operatori parlano di piani che possono andare dalle principali 100 città, dipende poi dall'operatore, ma tendenzialmente sono Telecom Italia, Fastweb e anche Vodafone che stanno facendo questa infrastrutturazione, chiamiamola di medio periodo, verso i cabinet di strada. Poi anche gli altri operatori prenderanno in affitto questa rete, oppure vedremo nei prossimi mesi quali saranno i piani. E quindi il famoso ultimo miglio non è più l'ultimo miglio in questo contesto, e poi rimarranno alcune zone del paese dove invece l'ultimo miglio è ancora l'ultimo miglio, e quindi ci si avvicina alle case degli italiani. Con che tipo di prestazioni? A questo punto, con queste tecnologie, riusciamo ad alzare il limite ai 20 megabit, dai 20 megabit di cui abbiamo parlato prima, a 30 megabit, o ci sono delle offerte che in casi particolarmente positivi arrivano a 100 megabit al secondo. Il vantaggio di queste tecnologie è di alzare anche la velocità in upload, quindi posso rimanere delle asimmetrie, ma in linea teorica possiamo avere velocità più alte in upload anche di 10 megabit e oltre, importanti perché, come vedremo, alcune applicazioni moderne richiedono anche traffico in salita. Anche in questo caso stiamo parlando però di una tecnologia sostanzialmente asimmetrica. Sì certo, la di base rimane asimmetrica, ma alzando comunque la portata del canale si può alzare anche l'upload, e poi potrebbero arrivare delle tecnologie simmetriche. Quindi in molti casi, quando gli operatori dicono vi portiamo la fibra ottica a casa, in realtà stiamo parlando, nella stragrande maggioranza dei piani attuali, poi vedremo cosa succederà nei prossimi mesi o anni, stiamo parlando di un pezzo di fibra. Io dico la fibra fino ad un certo punto, la fiber to the cabinet è la fibra fino a un certo punto. Sì, diciamo che è tutti i sensi. Sì, ecco, siccome lo chiedono parecchi ascoltatori, un abbonamento così detto in fibra poi si risolve in collegarsi ancora col doppino telefonico, e la gente si chiede ma mi avevano detto che portavano la fibra, esatto, e mi collego ancora col doppino telefonico, è una trovata di marketing, diciamo. La fibra arriva vicino a casa nostra, fa l'ultimo pezzo in RAM, e di fatto è comunque una tecnologia nuova, più performante, non è una truffa, è un po' un gioco di marketing che si utilizza. Ecco. Tu sei molto buono. Senti, e lo step successivo? Lo step successivo è quello di portare invece la fibra fino alla casa. O all'ufficio, all'azienda. All'ufficio, all'azienda, sì, il cosiddetto fiber to the home. In questo caso la fibra ottica arriva fino a casa nostra. Ci sono delle problematiche di posa dei cavi, chiaramente, però a questo punto le velocità possono salire considerevolmente. Quindi le primissime connessioni a 300 megabit già lanciate in Italia utilizzano questa tecnologia, e poi se andiamo a leggere i datasheet delle codifiche nuove, i datasheet sono specifiche tecniche, chiaramente si può arrivare tranquillamente al gigabit e a più di un gigabit al secondo. Chiaro, stiamo un po' parlando adesso di teoria ben lontana dal mercato oggi, però sicuramente con il fiber to the home si possono raggiungere ordini di grandezza superiori a quelli attuali. Sì, sì, tu dici bene, stiamo parlando di teoria soprattutto, o meglio, stiamo parlando di teoria in ambito domestico. Se parliamo invece delle aziende, già oggi ci sono delle aziende che usano il gigabit per trasferire dati da una sede all'altra, o da azienda di un cliente o ad un'altra azienda. Faremo nelle prossime puntate, perché questo è interessante, alcuni esempi pratici di aziende che sono onnivore e consumano molti, in termini digitali, che consumano molti ormai gigabit e non solo megabit. In questo caso le prestazioni della fibra ottica sono tendenzialmente infinite, ma anche simmetriche, giusto? Upload e download alla stessa velocità. Esattamente, il fiber to the home permette la simmetria tra il downlink e l'uplink. Tecnicamente, perché poi gli operatori in molti casi hanno delle offerte commerciali che non ci danno questa simmetria. Esatto, è una scelta commerciale di condividere delle risorse. Allora, noi abbiamo parlato di connessioni via cavo fino adesso, giusto? Sì. Perché? Perché la vera banda ultralarga è via cavo, per tutta una serie di ragioni che magari tu puoi anche citare, però ci sono degli step evolutivi anche nelle connessioni wireless. Citiamo quello che sta succedendo sul mercato. In ambito wireless ci si porta dietro tutta la storia, annosa storia del digital divide in Italia e non solo. Dove il cavo non arriva, il rame, a volte e molto spesso la fibra, ci si può rivolgere a un provider che utilizza una connessione wireless per portarci direttamente via radio il segnale e quindi la banda a casa o in ufficio. È una tecnologia appunto diffusa nelle aree disagiate dal punto di vista tecnologico, e oggi con le tecnologie Hyperlan o simili si raggiungono velocità analoghe alle prime fibre ottiche, quindi 30 megabit sono tranquillamente disponibili già come offerta commerciale anche tramite connessioni in modalità wireless. Sì. E poi c'è la telefonia mobile. E poi c'è la tecnologia mobile che evolve, chiaramente con velocità inferiori, problematiche differenti di traffico, di quantità di dispositivi connessi, però con le reti 3G e 4G le velocità salgono anche da quel punto di vista. Sì, col 4G stiamo parlando di velocità che assomigliano assolutamente alla fibra ottica più performante, perché stiamo parlando di 100, in alcuni casi con le ultime tecnologie 4G, più di 200 megabit al secondo. Esattamente, con un problema, ecco, che è siccome ci colleghiamo direttamente con il dispositivo a internet e non è la casa dove poi suddividiamo il nostro accesso a internet tra vari dispositivi, il grosso problema è quello del numero di dispositivi attivi che vanno a popolare la rete, vanno a condividere la banda a disposizione. Quindi tu stai dicendo che se sono da solo col mio smartphone, ammesso che il mio smartphone vada a quelle velocità, e poi veniamo anche a questo punto, ammesso che il mio smartphone vada a 200 oppure insomma a 100 megabit, se sono da solo, se siamo in pochi, esatto, se siamo in molti, poi si deve condividere la rete. Soprattutto se per caso sono da solo, ma scenario futuribile ma non tanto, ho internet delle cose, ho la macchina collegata a internet, ho lo smartphone collegato a internet, dietro ci sono due figli con l'iPad collegato a internet, insomma i dispositivi connessi sono tanti. Certo, ma infatti questa è un'evoluzione, sicuramente gli operatori devono venire in conto, adattarsi a queste esigenze, ma chiaramente devono anche guardare alla sostenibilità economica degli investimenti, certo, e vedere come si evolve, perché diciamo i consumatori sono assetati di banda, tutta quella che hanno la consumano, e quindi visto che però tutto questo costa, perché bisogna fare investimenti molto, molto corposi, insomma bisogna stare attenti. Senti, tutto ciò per far cosa? Perché ci sono ascoltatori che scrivono: ma io ho pochi megabit, mi sono sufficienti, mi hanno offerto qualche megabit in più, ma non so per farci che cosa. Oppure altri che dicono: ma io ho un'offerta, mi sono collegato con una bellissima connessione più performante, ma francamente non vedo questa differenza. Certo, se uno va a vedere solo le pagine del sole24ore.com, insomma un sito internet normale, forse non nota questa esigenza. Mentre parliamo di questo, siamo consapevoli che ci sono molti dei nostri ascoltatori che purtroppo vivono in zone ancora, tra virgolette, in digital divide, perché il digital divide è un concetto elastico che si espande nel tempo, nel senso che mentre prima il digital divide era dove non c'era la connessione, oggi magari è dove c'è una connessione a 2 megabit, a 4 megabit, possiamo già considerare che sia in digital divide anche chi è a 7 megabit, e magari fra qualche anno sarà in digital divide chi è a 10-20 megabit. Certo, perché poi c'è il discorso di che tipo di utenza è quella interessata, se è l'utente consumatore, se è l'azienda, se è l'utente cosiddetto prosumer, cioè un consumatore con esigenze particolari. Tornando alla tua domanda iniziale, il discorso del a cosa serve questa banda. Esatto. Beh, dal punto di vista del consumatore, innanzitutto allo streaming video di flussi Full HD. Quindi con l'aumentare della qualità... Già oggi. Esatto. Con l'aumentare della qualità del flusso video, se questo è trasmesso tramite internet in streaming, serve una certa banda, una certa stabilità di questa banda di trasmissione. Soprattutto se ipotizziamo che in una casa potrebbero essere attive più trasmissioni video contemporaneamente. Sì, ti interrompo perché hai citato, hai detto un termine corretto. Stiamo parlando di stabilità, affidabilità, qualità della connessione. Quindi mentre si amplia la banda, si amplia anche questo concetto di stabilità, qualità della connessione, perché su collegamenti che magari arrivano ad alcuni megabit non siamo sicuri, non siamo certi che ci sia una continuità di servizio, una stabilità. Naturalmente se abbiamo più spazio aumenta anche la qualità del servizio, questo è importante. Sì, quindi se vogliamo vedere un film banalmente, certo, in streaming non lo vediamo in modo fluido, senza interruzioni. Esattamente, senza fastidiose interruzioni o chiamiamoli scatti. Sì. Quindi il video in streaming. E poi c'è il discorso del cloud, usare questa parola che torna sempre in gioco. E qui torniamo all'importanza della velocità in upload, oltre che quella in download. Se noi utilizziamo dei servizi, ad esempio di sincronizzazione dei dati online o di storage online, è chiaro che ci affidiamo a dello spazio su disco, dei dischi virtuali che risiedono su internet. Quindi tutti i nostri file che vogliamo condividere, salvare, sincronizzare, devono essere trasferiti sulla rete. E spesso, anche in ambito consumer, questi file non sono file di piccole dimensioni. La collezione delle foto, il filmino delle vacanze, con le tecnologie di codifica che ci sono oggi, sono comunque file di grandi dimensioni. E la sincronizzazione richiede tempo se la banda a disposizione non è quella sufficiente. Sì. Quindi l'aumento di banda anche in upload permette di gestire questi servizi, queste applicazioni con maggior fluidità e quindi con un'esperienza poi pratica molto più appagante, sì, dal punto di vista del consumatore. Per non parlare poi dei consumatori evoluti e delle aziende che invece ci fanno il lavoro con queste cose. Quindi se io devo trasferire un file di grandi dimensioni a un collega, a un fornitore, a un cliente, non posso permettermi di dire ok, faccio partire l'upload e ci vediamo domani mattina. Magari mi serve che questo sia caricato in pochi minuti perché ci devo lavorare sopra. Esatto. Quindi queste cose sono realtà già oggi che richiedono bande superiori a quelle della DSL. Esatto. Pensate ad esempio all'obbligo della fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione. Stiamo parlando di file effettivamente poco pesanti, però stiamo parlando di, magari in alcuni casi, tantissimi file. Ma se sommiamo questa trasformazione tecnologica con tante altre, capiamo che il traffico sta aumentando, aumenterà sempre di più, e quindi contemporaneamente le aziende, la pubblica amministrazione e anche i consumatori finali dovranno trasferire da un punto all'altro della rete tantissimi file, al di là di alcuni file molto pesanti. Quindi c'è sia un tema di file molto pesanti, ma anche di quantità di file, di traffico che va e viene. Se poi pensiamo alla Internet of Things, quindi di sensori sparsi ovunque che si connettono e trasferiscono dati da un punto all'altro della rete internet, capiamo che il traffico generato da tutto questo mondo caotico da un certo punto di vista aumenta sempre di più, quindi le reti dovranno essere più performanti da questo punto di vista, sia quelle fisiche che quelle wireless senza fili, perché ovviamente quando tu citi le fotografie noi ormai ci stiamo abituando gradualmente ad avere le foto sul computer, o meglio, prima sul nostro smartphone e poi sul tablet, sul computer, ma mentre noi facciamo altro queste fotografie devono spargersi di qua e di là con capacità sempre più evolute. Prima io ho citato il terminale, cioè il nostro smartphone. Quando noi siamo sulle reti mobili possiamo raggiungere alcune velocità, ammesso che il nostro smartphone sia capace di mantenerle, di gestirle queste velocità. La stessa cosa vale per il computer. Io non vorrei che molti degli ascoltatori che ci scrivono e dicono ma io non ho percepito nessun beneficio abbiano magari un computer un po' datato che non riesce a gestire e a sostenere collegamenti a oltre 20 megabit, 30, 40, 50 eccetera. Sì, perché questo finora, è uno dei punti deboli. Finora abbiamo parlato di come la tecnologia ci porta velocità fino alle soglie di casa, poi cosa succede dentro casa quando ci muoviamo. Sì. Il dispositivo, quindi per esempio il computer in casa, è un aspetto che molti sottovalutano. Oggi internet non è più una serie di pagine statiche, leggere e navigabili con un computer obsoleto. Spesso le pagine internet sono complesse, il cosiddetto rendering della pagina, cioè l'elaborazione della pagina da parte del terminale, quindi del computer, richiede una potenza anche di calcolo non indifferente. Una cosa che spesso si sottovaluta è quindi le prestazioni del computer. Un computer vecchio, e quando parlo di computer vecchio intendo anche un computer di 5 anni fa, e ce ne sono di realtà domestiche in cui sono computer di questa età, può fare fatica perché appesantito magari da un sistema operativo che è stato aggiornato e che quindi già è pesante rispetto alle specifiche hardware, si trova a dover gestire delle pagine che sono pesanti dal punto di vista dell'elaborazione dei dati. Senza contare che poi quando parliamo di applicazioni online parliamo di un livello di complessità ancora superiore, quindi quando io comincio a lavorare on the cloud anche per fare applicazioni richiede una prestazione anche del computer, del terminale di un certo tipo. E poi c'è il discorso della rete locale. Tipicamente oggi tutte le case o quasi tutte condividono la connessione che arriva tra i vari dispositivi di casa con un router che integra anche il wifi, quindi diciamo in modalità wireless, router non proprio recentissimi che utilizzano standard di qualche anno fa potrebbero rappresentare un collo di bottiglia in caso di connessioni molto elevate, perché magari un po' di interferenza, lo standard che non è l'ultimo, il limite potrebbe essere di 15-20 megabit, non per colpa della connessione che arriva a casa nostra, ma per come noi poi la distribuiamo in casa. Con il wifi a quanto si arriva in casa? In termini di velocità? Con le ultime tecnologie si può tranquillamente andare oltre il 100 megabit senza problemi, però non è raro trovare router che sono di generazione precedenti e quindi magari anche per qualche problema scendiamo rapidamente sotto i 50 megabit per poi scendere sotto i 20, quindi cominciamo a avere lì il collo di bottiglia. Sì. Mi vuoi citare il forno a microonde? Forno a microonde? Diciamo, cosa c'entra il forno a microonde? Sì, no? Perché il wireless ha poi anche il problema delle interferenze. Storicamente i dispositivi Wi-Fi utilizzano la frequenza intorno ai 2,4 GHz, oggi anche qui 5, però sui 2,4 ci sono tante tecnologie che sfruttano queste frequenze, tra cui forno a microonde, i dispositivi cordless, i teleallarmi, i monitor per i bimbi, i wireless. Cosa succede? Che spesso queste tecnologie interferiscono fra di loro. Non è raro imbattersi in utenti che quando utilizzano l'iPad in cucina, mentre utilizzano il forno a microonde, hanno un degrado del segnale dovuto all'interferenza tra il wifi e il forno a microonde. Non è colpa dell'operatore in questo caso, ma è colpa, chiamiamo nostra, diciamo, del nostro dispositivo locale. Quindi, diciamo, a volte le connessioni che noi abbiamo a disposizione vengono degradate da problemi nostri, da problemi di casa nostra. Certo. E io penso che quello del computer sia una delle cose più diffuse, perché mi è capitato alcuni scambi di email con ascoltatori e poi alla fine scopri che uno magari è un computer vecchio. Io infatti per gestire i miei 100 megabit in fibra ho un computer di ultimissima generazione che definisco una bomba che funziona sì. benissimo. Ecco, senza contare, abbiamo fatto l'esempio del Full HD pochi minuti fa, ci sono dei computer che non riescono a decodificare il filmato Full HD per causa di prestazioni di elaborazione dei dati, non è colpa del flusso che non arriva costante, ma è colpa del computer che non riesce a fare la decodifica. Esatto. Grazie a Simone Zanardi per essere stato con noi, a presto, buon lavoro, ciao. Grazie Enrico, alla prossima. Abbiamo parlato di quello che succede a casa nostra, quindi a valle del collegamento internet. Parliamo anche di quello che c'è a monte, perché alcuni problemi della rete internet, a volte alcuni intoppi della rete internet possono essere anche a monte nella grande internet, come si dice, come dicono gli esperti, big internet. Di questo abbiamo parlato con Giovanni Ferigo, che è il responsabile del network di Telecom Italia. Telecom Italia è il più grande operatore internet d'Italia e abbiamo parlato di quello che succede a partire dal traffico tipico di una giornata su internet. Vabbè, mi consenta di darle qualche informazione dividendo gli utenti che sono in mobilità, che hanno i classici famosi telefonini, gli smartphone soprattutto, da quelli che sono un pochino più residenti negli uffici o a casa. Intanto, diciamo, nell'ambito del mobile, quest'anno vediamo, ed è un trend che si conferma di anno in anno, più 35% in termini di volumi scambiati sulla rete mobile, in termini di dati che scambiamo. Gli utenti che si affacciano al mondo dello scambio dati aumentano dell'11% rispetto all'anno scorso, e si nota un trend che è abbastanza nuovo, che mentre fino a un paio d'anni fa, diciamo, c'era una spiccata differenza tra il giorno feriale e il giorno festivo, adesso per quegli utenti che sono del mobile l'utilizzo è flat durante tutta la giornata, salvo la punta, il picco, che è tra le 13 e le 14. Tra le 13 e le 14 gli utenti del mobile usano e scaricano tantissimo i dati, mentre per quello che riguarda gli utenti che stanno tipicamente a casa e usano il computer, la connessione Wi-Fi o ADSL, il picco è tra le 21 e le 22:30 e durante la giornata è abbastanza flat, comincia a muoversi in crescita il traffico dalla parte del fisso intorno alle ore 14. Questo è molto interessante, quindi ci sta dicendo che la pausa pranzo è un grande generatore di traffico per l'utenza mobile. Assolutamente sì, tipicamente l'utilizzo è sui social, Facebook, Instagram, insomma tutti i WhatsApp e video. Stiamo notando un utilizzo del video molto molto spinto. In generale è, immagino, più importante il traffico fatto da rete fissa che da rete mobile ancora oggi. Sì, diciamo che il rapporto che c'è tra i volumi tra la rete fissa e la rete mobile è 20-1, cioè il traffico, il volume smaltito dalla rete fissa è 20 volte quello del mobile. Quindi è ancora molto molto importante, però certo sta crescendo molto la rete mobile, invece la rete fissa è più o meno stabile? No, anche la rete fissa in termini di volume di traffico aumenta di circa il 20% nell'ultimo anno, facendo anno su anno, 20% anche in termini di volumi sta aumentando anche lei. Potremmo dire che il traffico da rete fissa è quasi un traffico, mi perdonino anche gli ascoltatori il termine, televisivo, quindi un prime time dopo cena. Direi di sì, diciamo che c'è di questa componente il 70% è quello che ha definito lei, streaming video, c'è un 16% circa che è peer-to-peer, scambio di file, no? Famosi BitTorrent e similari, no? Nel senso che ci si scambia file tra utenti utilizzando la rete fissa. Esatto, e in maggior parte, ai noi, in modo illegale, però su questo... Questo fenomeno è molto poi più accentuato quello del BitTorrent la notte. Ah sì. Diciamo che uno va a dormire e lascia lì che scarica la rete, si scarica. Sì, macchine che lo fanno in automatico, insomma. Senta, noi quando ci colleghiamo a internet, succede anche a me che sono fortunato ad abitare in una zona dove le connessioni sono molto performanti. Mi collego magari appunto in questa fascia, come che lei ci ha definito, dopo cena, insomma nella prima parte della serata, e a volte ho difficoltà ad accedere a alcuni siti internet. Questo accade per quale motivo sostanzialmente? Ma i motivi sono, diciamo, contemporaneità di tante richieste che possono avere due effetti. La rete di trasporto, ma di solito non succede mai perché siamo dimensionati molto bene, dipende quasi sempre, diciamo, dal sito che uno raggiunge, quindi dalle macchine che ha, dai server che non riescono a smaltire in contemporanea queste richieste che magari sono inaspettate e non si sono adeguatamente dimensionati. Sì, quindi sostanzialmente può sembrare incredibile, ma alcuni siti, anche tra i più famosi, quando ci sono milioni di persone che si collegano contemporaneamente, potrebbero avere difficoltà nel restituire i servizi che uno va a cercare. Assolutamente sì, tenga conto che molto spesso, diciamo, i server sono anche piuttosto lontani, magari negli Stati Uniti piuttosto, e quindi entra in ballo anche, insomma, le reti internazionali che possono generare qualche ritardo, ma tipicamente sono questi siti che non sono dimensionati adeguatamente. Sì, questi siti in generale quali sono? Non so se ci può fare dei nomi o ce li può suddividere per macro settori, video, social, eccetera, ma immagino, insomma, che i nomi siano poi YouTube, Facebook, eccetera. Quelli, diciamo, i video, diciamo, più o meno adult, direi più adult che meno, e tantissimo lo streaming sta andando moltissimo, Amazon, se posso fare dei nomi, perché praticamente c'è parecchio traffico anche sull'e-commerce, e poi quelli che ha detto lei, insomma, no, che sono i principali siti anche visitati, che sono Google, Facebook, YouTube, anche perché, ripeto, quasi tutti questi siti hanno anche una componente video molto importante. Sì. Le faccio una domanda per capire anche qual è il comportamento di questi che vengono definiti gli over the top. Queste società devono naturalmente equipaggiarsi per erogare servizi sulla rete internazionale e sulle reti poi anche degli operatori. Quindi che cosa fanno? Pagano per avere più banda? Distribuiscono server in giro per il mondo? Che cosa fanno sostanzialmente? Sostanzialmente installano server in giro per il mondo. Diciamo, quelli un pochino più seri fanno dei contratti di interconnessione diretta con noi, con gli operatori, diciamo, telco un pochino più consistenti, altrimenti usano quello che si chiama il free riding, nel senso che vanno nella grande big internet e raggiungono la destinazione con il best effort, che quindi non si sposa mai benissimo con la qualità. Visto che lei ci ha detto che il traffico da mobile sta crescendo molto, e lo vediamo oltre che dai dati che lei ci ha illustrato, anche, insomma, dall'utilizzo quotidiano, insomma, di molte persone, faccio una domanda per chiarire uno dei miti che girano a volte. Per avere grande performance sulla rete mobile bisogna in realtà aumentare la capacità della rete fissa, giusto? Sì, in questo senso. Allora, per avere grande capacità sulla rete mobile bisogna adeguare prima la parte radio e l'accesso, in maniera tale che la radio, a differenza della fibra, è una risorsa condivisa, quindi, insomma, più si è, meno performanti si diventa, no? Quindi noi dobbiamo assolutamente adeguare l'accesso radio, dopodiché chiaramente il trasporto, che è la rete fissa che sta subito alle spalle della rete mobile, va di conseguenza adeguata, ed è quello che abbiamo fatto in gran parte e stiamo facendo. Mi dia un suo parere. Io sono un grande fan del cavo. Lei, da responsabile del network di Telecom Italia? Io sono come lei, direi, fondamentalmente definendo questa cosa, come l'ho detto, no? Il mobile è una grandissima opportunità perché ti consente di vivere e di dare riscontri immediati sempre, dovunque tu sei, però è una risorsa condivisa. Invece il cavo è una cosa assolutamente dedicata a te, che puoi, come posso dire, assolutamente utilizzare con performance che sono sicuramente in condizioni medie più, come posso dire, performanti. Però, come ci diceva, la connessione in mobilità sta crescendo moltissimo. Mi dico un'ultima cosa di quello che succede, in parte lei ce l'ha già detto, ma sulla rete di telefonia mobile qual è l'evoluzione più spiccata che voi vedete? La parte, diciamo, del mobile che sta crescendo il video, e noi stiamo notando parecchio che, per esempio, gli eventi sportivi, che sono eventi mi lasci dire, contemporanei stanno salendo parecchio e questo ci obbliga a garantire la contemporaneità di un sacco di persone che vogliono vedere le partite, e questo è il fenomeno nuovo che sta esplodendo in questi ultimi anno e mezzo, due anni, costituisce nei momenti in cui ci sono le partite circa 10-15% del traffico totale della rete mobile. Che è incredibile, e tra l'altro qui viene fuori tutta la mia storia nel mondo del broadcast, mi verrebbe da dire, con un utilizzo delle risorse inefficiente, però giustamente voi dovete fare quello che vi chiedono i clienti, perché sugli eventi live la cosa migliore sarebbe il broadcast e non la rete internet. È vero, però insomma ci stiamo adeguando, insomma lei credo che conosca bene anche tutto il fenomeno Netflix, no, degli Stati Uniti, e questo insomma sta anche se va in streaming, sta conquistando il mondo, quindi diciamo sono d'accordo con lei sul broadcasting, però probabilmente sta vincendo questa soluzione di streaming. Esatto, non mi dica proprio così, non mi dica che sta vincendo, diciamo che si sta allargando. Va bene, dico che si sta allargando, condivido. Grazie per essere stato con noi, le auguro un buon lavoro, a presto. A presto, grazie. Aggiungo altro, perché poi mi dite che sono nostalgico del broadcast, però se uno ha vissuto buona parte della propria vita, anche se non sono prossimo alla pensione, però nel mondo del broadcast gli piange un po' il cuore sentire persone che guardano la partita di calcio su internet, però effettivamente uno si abitua, non lo sa nemmeno che è meglio il broadcast, la gente mica sta lì a pensare a queste cose, quindi utilizza questi mezzi, che è un po' quello che sta succedendo, che ci ha spiegato e raccontato l'ingegnere Ferigo di Telecom Italia, è un po' quello che diceva Ellen Bowden della BBC. I ragazzi si abituano a usare lo smartphone, il tablet, i computer per fare tante cose, e lì ci ascoltano anche la radio. Non sanno che è la radio, come l'abbiamo vissuta noi, come la stiamo vivendo noi, e quindi dobbiamo dare risposta a questi giovani in quel mondo con le applicazioni per smartphone, che si portano dietro anche immagini, molto altro rispetto al video. Insomma, le cose si trasformano ed è giusto adeguarsi, come diceva Ellen Bowden, adattarsi e rispondere alle esigenze anche dei nuovi consumatori. Mondo pieno di opportunità, non solo di minacce, eh? Bene, come sempre grazie per aver ascoltato 2024 nella sua versione podcast. Questa settimana con contenuti particolarmente ricchi ed esclusivi solo per il podcast, abbiamo tutte le nostre interviste in versione integrale più ampia rispetto a quella che quelle che abbiamo trasmesso in onda il venerdì sera tra le 22 e le 23, domenica nel nostro appuntamento più breve dalle 13.05 alle 13.30. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica, il mio indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci risentiamo la prossima settimana. 2024. 31 seconds and we're going for auto sequence start.